corsi in erpica, in far di fantasia, tenendo ogni orla mente in sua balia. Sappiate che di voi oramai, del vostro viso, già mi prese malattia. A volte il cuore di voi, Madonna angelica, mi inchiude la magia, sicché null'altra veggio compagnia. Non v'accorgete dunque voi d'un tal che muore, di una simile agonia. A volte il cuore, d'amor deriso, se